Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, non ricordo chi abbia detto «devo essere duro per essere giusto». E non so neanche se riporto la frase correttamente, ma è il significato quello che conta. Assistendo ai programmi televisivi e ascoltando la radio, ho avuto la netta percezione che i due media si possano integrare alla perfezione, ma solo se si verificano degli allineamenti favorevoli. La prima condizione del teorema è che alla radio ci siano persone che fanno dell'indipendenza di pensiero uno stile di comportamento, che non necessariamente significa essere così, ma spesso mi pare corrisponda al fare così. Il fare così è una scelta, niente a che vedere con il DNA, molto a che vedere con l'arbitrio. Il fare così costa grande fatica personale, fatica fisica e psichica. Mi è capitato, viaggiando molto, di ascoltare tante radio, ma alla fine ho eletto i miei «devo essere duro per essere giusto». Lei, direttore, di cui conservo un ricordo anche personale nei primi anni Ottanta, corso di scrittura creativa a Milano con Giuseppe Pontigia, Centenario Breda e con i 5 Nobel. Ma lei forse non si ricorda e comunque io ero un ragazzino trentenne, ma certe sue modalità mi sono rimaste in mente. E poi Giuseppe Cruciani e Gianni Bisiak. È una fatica tremenda ascoltarvi, confesso che a volte mi devo prendere una pausa di qualche minuto. Si sente che fate fatica, si sente quando vi girano a elica e mandereste a fare una passeggiata l'interlocutore di turno e non lo fate neanche di striscio. Si sente quando volete andare subito al sodo, quando falciate via quelli che l'indulgente Eric Berne dolcemente definiva passatempi, inutili tracce di comunicazione preparatorie per arrivare al dunque. E non mi dica che è una questione legata ai tempi radiofonici, non ci crederò mai. E quindi voi siete duri per essere giusti, nella peggiore delle ipotesi, per tentare di essere giusti. La buona fede passa, mi creda. E anche questa è elemento di stanchezza. Dopo qualche ora giornaliera del soprammenzionato trio, io arrivo a casa, come puoi immaginare, stanco ma ricco. Ricco di modalità. E allora mi piace guardare programmi svuotati da ogni contenuto di tipo sociale o politico. L'Isola dei Famosi, Amici e cose del genere. Il giorno dopo ne parlo con i colleghi o con il primo che capita. Mi guardano male. Ma non guardi Anno Zero o Matrix o simili? No. Ascolto il mio trio. E su di me hanno l'effetto che ha la banana per la scimmia. Mi guardano male. E io continuo a guardare apparenti programmi della trash television. Ecco, gentile direttore, che è arrivato fin qui a leggere. E già solo di questo mi sento onorato. Qui si compie l'allineamento favorevole di cui parlavo all'inizio. Le pare poco? Ne era anche lontanamente consapevole? E allora, avanti così. Cordialità, Matteo, 50 anni, Milano. La riforma della scuola dovrebbe essere fatta con il consenso da parte del governo e dell'opposizione e dovrebbe essere intoccabile per almeno 10 anni. Una riforma fatta solo da una parte è una riformetta e ne pagheranno le conseguenze solo insegnanti ed alunni. Lettera firmata. Le procedure concorsuali, persino quelle per i precari, sono pilotate, così da escludere ogni vera selezione e concorrenza, che è il principio del concorso. Non è vero che noi precari abbiamo comunque superato un concorso, perché nel 90% dei casi si trattava di un concorso finto. Riaprire i concorsi, d'altra parte, non ha senso se non si interviene sul meccanismo che permette alle camarille accademiche di selezionare i vincitori prima del concorso. Valentina, Firenze. Quesito. Chi garantisce la serietà dei nuovi concorsi? C'è quasi da ridere. Lo Stato non si fida mai dei suoi rappresentanti e si illude che cambiandoli, lasciando regole che si possono interpretare per gli amici, si correggano tutte le disfunzioni. Anna. Ma come? Nell'era dell'elettronica non è possibile disinserire il tasto della votazione per il deputato assente? Oppure dotarlo di un badge che ne rilevi la presenza in aula e che automaticamente, alla sua uscita dall'aula, disinserisca la sua postazione di lavoro? Io credo che si possa fare. È che non lo si vuole fare. Valentino. Se io vengo sorpreso a timbrare il cartellino di un collega, vengo licenziato dopo nemmeno un secondo. Perché il Parlamento deve essere una zona franca? che si cacci chi viene sorpreso a votare per un'altra persona e vedrete che si risolverà il problema. Trovo ridicolo quel signore che ha detto che è lecito votare per chi ha bisogni fisiologici. Roberto Lecco. E questa è la mia ultima risposta a una lettera. E ne ho scelta una difficile, quella di un'ascoltatrice. Caro direttore, Giovanni Sartori ha scritto sul Corriere della Sera che sta sparendo il buon senso. Ma la mia domanda è un'altra, anche se connessa. La sfido. Vorrei sentire la sua opinione, non si è mai espresso, su chi ha ragione tra Berlusconi che evoca ancora il pericolo comunista e Famiglia Cristiana che parla di democrazia attenuata e stato prefascista. Grazie, Miriam, Tempio Pausania. Cara Miriam, lei forse lo immagina, ma mi invita a nozze. Ma per risponderle, prima ascolti questo minuto abbondante in cui ho ridotto un celebre monologo cinematografico dal quale ho tolto qualunque riferimento storico. Eravamo una democrazia, sì, ma dilaniata da discordie interne. Soprattutto c'era la paura. Paura del presente, paura del domani, paura del vicino e paura di noi stessi. Ci sono dei demoni fra noi, comunisti, liberali, ebrei, zingari. Quando i demoni verranno distrutti, le vostre miserie verranno distrutte. Ma dov'erano quelli di noi che sapevano? Che sapevano che erano tutte menzogne e peggio che menzogne. Perché restammo in silenzio? Perché collaborammo? Che differenza fa se alcuni estremisti politici perdono i diritti civili? Che differenza fa se alcune minoranze razziali perdono i diritti civili? È solo una fase passeggera, solo una tendenza momentanea che verrà messa da parte prima o poi. Prima o poi. E poi un giorno ci guardammo intorno. E vedemmo che correvamo un pericolo ben peggiore. Ciò che doveva essere una fase passeggera era divenuto un sistema di vita. Non è facile dire la verità. Che noi non sapevamo. E dove eravamo? Eravamo sordi, ciechi, muti! Il mio avvocato dice che non sapevamo. Ciò forse ci rende meno colpevoli. Forse non conoscevamo i dettagli. Ma se non sapevamo, era solo perché non volevamo sapere. Traditore, traditore! Ordine, ordine! Avete indovinato da che film è tratto? No, non è di oggi. In realtà è una pellicola del 1961, regista Stanley Kramer. Vede Miriam, in una società consolidata, strutturata, qualunque inclinazione assuma il piano della democrazia, questa inclinazione ha effetti scarsissimi. Ma adesso, siamo nel terzo millennio, sotto molti profili la società in cui viviamo ha perso antiche certezze, convinte ideologie. Secondo una definizione di successo di Zygmunt Bauman è divenuta una società liquida, per cui ogni inclinazione del piano vede la democrazia raggrumarsi tutta da una parte o dall'altra, col rischio di forti sbilanciamenti, questo è vero. Svelo il mistero, il film è sul processo di Norimberga al nazismo. Per carità, cercate di capirmi se per caso equivocate riascoltate sul sito questa lettera, questa risposta. Non sto affatto dicendo che il centrodestra ha ridotto il paese in uno stato prefascista, tutt'altro. Facciamo un esempio proprio d'attualità di questi giorni. Berlusconi dice che a forza di decreti costringerà il Parlamento a prendere provvedimenti nei tempi necessariamente urgenti che servono. E allora subito reagisce Fini, poi si corregge, reagisce l'opposizione, Napolitano prende posizione ufficialmente, i due si incontrano, al termine della cena Berlusconi dice è stata una serata straordinaria. Prendiamo per esempio i militari, sono già per le strade, ci siamo abituati a vederli per motivi di sicurezza, no? Però sono per le strade di un'Italia dove i media gridano subito tutti in galera se si riferiscono ai provvedimenti antiprostituzione. Oppure si prendono le impronte ai rom e diciamo siamo tutti razzisti. E forse è vietato passeggiare in treno in un parco pubblico di notte da qualche sindaco e si dice vietato l'assembramento come nel codice fascista. Ecco, quei militari, dicevo, chi pensa che un giorno vieteranno l'ingresso in Parlamento o ci chiuderanno i parlamentari dentro, chi pensa questo sbaglia di grosso, è fortemente fuori strada. E non tanto perché Berlusconi sta interpretando esattamente il sentimento dei cittadini stanchi di un Parlamento sovrano, sì, ma che discute, discute, discute in eterno, senza tener conto del contesto che esige interventi in tempo reale. Qualcuno ricorda i 40 anni di bicamerali passati inutilmente per fare le riforme costituzionali? Parafrasando il monologo recitato da Burt Lancaster, al di là di quello che fanno i governi, qualunque governo, dunque, se alla domanda dove eravamo, potremmo rispondere c'eravamo e abbiamo discusso, manifestato opinioni diverse, criticato, senza temere che qualcuno ti urli addosso traditore, traditore, oppure comunista o anche fascista, ecco, secondo me la democrazia sarà al sicuro. Nessun periodo difficile che pensiamo prima o poi passi diventerà così uno stile di vita permanente. Grazie e auguri a tutti. Il premier israeliano Olmert si è dimesso alcune settimane fa. Era indagato per corruzione, ovvero per aver preso soldi per la sua campagna elettorale senza registrarli al partito. In Israele nessuno ha pensato a fabbricare su misura un lodo Schifani Alfano. Olmert è andato in televisione, ha fatto un discorso, si è rivolto agli elettori del suo partito. Ha detto: «Io sono innocente, intendo dimostrarlo davanti ai giudici, ma voglio dimostrarlo senza lo scudo del mio incarico pubblico, perché potrebbe intimidire i giudici». Olmert ha poi concluso con queste parole: «Sono orgoglioso di aver guidato un paese democratico, nel quale la polizia e la magistratura indagano liberamente sul capo del governo, senza alcun condizionamento». Che modo bislacco ha Olmert di intendere la democrazia? Ognuno faccia i commenti che preferisce, ma credo siano molto simili ai miei. Yolanda. Direttore, ho saputo con dispiacere che lascerà presto la radio. Non ho ancora capito bene chi la sostituirà. E mi dispiace non poter più sentire i suoi commenti, il suo modo pacato di descrivere gli avvenimenti, di commentare le notizie. A volte è persino antipatico e scontroso. Schierato o non schierato, chi se ne frega? Perché in fondo anche un giornalista ha il sacro diritto di esprimere la propria opinione. O no? Mica è solo un freddo cronista. La seguo dai tempi di Vermicino e ancora su Radio 2. Che dire? Mi mancherà la sua voce tagliente ma sempre educata e mi mancherà un direttore di radio che ti risponde via mail alle 8 del mattino, come lei ha fatto spesso per iscritto a me. Arrivederci a presto e mi faccia sapere dove va, anche se la mia Radio 24 non si tradisce. La passione si sente. Raffaele da Cuneo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.